I pidocchi? No, non l'ho mai avuti. Ne conosco uno però di pidocchio. Ci sei tu, Parenzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Un grande leccaculo sei una cosa vergognosa, sei un giornalista del cazzo, leccaculo! A proposito di Salvini, iniziamo così perché la frase del giorno, popolo della radio, la frase del giorno è quella la pronunciata. La vergogna del giorno, non la frase. No, ma bisogna dire le cose con le parole giuste. La frase del giorno. Lui fa l'assettico, fa il giornalista montanelliano, prima i fatti assettico, e poi i commenti. Io montanelliano, ma quando mai? La frase del giorno, tic tic tic. La vergogna del giorno. Avanti. Quale vergogna del giorno? Avanti. La frase del giorno. Io sono convinto. Stai tranquillo. Ma ti sei, mi sembra che ti stai scaldando così senza motivo. Avanti, vai, allora, la frase. Amici della radio, gente che sta ascoltando in macchina, sui camion, in taxi, mentre siete con l'amante in un motel. No, sono l'amante con un motel, non ascoltano. L'amante in un motel e ascoltano la zanzara. È pieno di gente che io conosco. Veramente. Che. Come no? Pieno di gente che io conosco che, nonostante il fatto che si rechi alle ore 18:30 a trombare con l'amante in un hotel, in un motel. Fai quel che devi fare, non telefonare, non ascoltare la radio. Ascolti anche la zanzara perché ti carichi, c'è la carica. Ti carichi, è pieno di gente che mi ha detto: gente, guarda, strana, io vado con l'amante prima di tornare a casa alle 18 in un motel, 18:30 in un motel, sì. E siccome voglio ascoltare la zanzara, sono con le cuffiette con la zanzara mentre fanno le cose loro con l'amante. Poi, ma è una cosa incredibile! È dai. Così, me l'hanno raccontato. Ma è una porcheria. Ma non è una porcheria, è una cosa normale. È una cosa normale. Il tradimento, devi capire, il tradimento, siamo passati a Salvini. Aspetta, siamo passati da Salvini al tradimento. Il tradimento fa bene alla coppia. Cioè, io voglio dire questa no, roba non qui. Non mi convincerai, ma andiamo il avanti. Il tradimento benissimo alla coppia. Cioè, è una cosa che rinvigorisce, ti rimette a nuovo, ti fa guardare il mondo con occhi diversi, guardi anche la tua compagna con occhi diversi. Magari ti piace di più dopo, dovresti sperimentarlo. Dovresti dire alla tua compagna. Se a te piace essere cornuto. No, ma non è così. No, ma sì, a cerca me piace, è vero, però. E lo vuoi far passare per normale? No, no. Non mi convincerai, ti chiedo scusa, mai. Però ti posso assicurare. Ma se a te piace così, leccare i piedi di una, di due, di tre, di cani, di animali. No, quello ti no, piace no, delle no, cose con più persone. Dai, non esagerare. Ti piace, sono gusti tuoi, ti prego, no, ma sì, bene, io li no, rispettiamo, io, non far passare questo, cioè avere delle corna in testa come una roba normale, non perché non lo è come il desiderio di tutti. Come sei antico, le corna antico in testa, io ti dico non una non cosa, è un desiderio di tutti. Da un sondaggio che ho fatto in tutti questi anni, ti posso assicurare, te lo posso dire con certezza, lo dico a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori della radio, all'inizio della zanzara, il tradimento, non chiamiamolo poi tradimento, che sembra una cosa veramente vecchia, il tradimento. Fare sesso con un'altra persona è una cosa che ti rimette a nuovo. Cioè, guardi la tua compagna dopo, tua compagna con degli occhi diversi, con degli occhi più felici, sei tranquillo, felice, e dice: vabbè, oh, l'ho fatto, ti amo di più, lo faremo meglio. E cioè, chiudiamo... guarda che c'è gente strana. No, figlio, ma non è no, bravo. Salvini, non c'è gente strana, è gente normalissima. Ragione. A proposito di Salvini, la frase del giorno è quella sulla polizia. Io sono convinto che tutti quelli che ci stanno ascoltando sono d'accordo con questa cosa qua. Ma cosa c'è? Mettiamo che l'avesse detto un'altra persona. Salvini parla molto chiaro da questo punto di vista. La polizia. Non può essere accusata, si sta parlando del reato di tortura, non entriamo nei dettagli, non può essere accusata e non può andare nei guai un poliziotto se prende un delinquente per il collo e questo delinquente, posto che sia un delinquente ovviamente, cade e si fa male o si rompe. Comunque sentiamo Salvini, questa frase che è, come dire, la frase del giorno su cui discutere. Mi raccomando, poliziotti, delinquenti, chiamateci. Ci vuole libertà di azione assoluta per polizia e carabinieri. E se devo prendere per il collo un delinquente, lo prendo per il collo. E se si sbuccia il ginocchio, si rompe una gamba, cazzi suoi. Evita di fare il delinquente, così non si sbuccia il ginocchio e non si rompe la gamba. Beh, amico mio, mi fanno emozionare queste cose. Libertà per la polizia di manganellare, libertà, libertà. Guarda, io libertà. No, la polizia deve fare la polizia. Sta dicendo una cosa ovvia. Vivi nel Cile di Pinochet. Ma che c'è? La polizia ha detto una Cile cosa di ovvia. Ha detto una cosa ovvia. Se, e allora, insegue... se è ovvia è una stupidaggine. No, se invece è quello che pensano tutti. Di tortura. Allora, ma lascia perdere il reato di tortura, il reato di tortura, una cosa complessa, complicata, complesso. A lui piace questo Salvini che come tirar l'acqua quando parla, è uguale, cioè di una semplicità e ma di un basico. C'è anche un'altra... La politica è complessa. Come fai a dire ma io mi vergogno anche del fatto, ma come fai a appoggiare, o è una banalità? Allora aspetta, allora... che c'è un'altra frase di Salvini sul capo della polizia, aspetta. Ah, anche su. Mai come in questo periodo gli uomini della Polizia di Stato si siano sentiti abbandonati non solo dalla politica ma anche da alcuni loro dirigenti. Ritengo che l'attuale capo della Polizia di Stato non sia il miglior capo della Polizia di Stato possibile. Beh, adesso devo dirti la verità, è forse più pesante questa di quella di prima. Quella di prima, certo, è un'ovvietà. Questa qua, il capo, certo, di un partito politico che dice che il capo della polizia, il capo della polizia italiana, il terzo partito italiano, se non ricordo male, però. Esatto. Quarto, adesso, terzo, caro Salvini, va bene che uno è esaltato, i voti, no, è tutto quello che vogliamo, però insomma, il capo della polizia è il capo della polizia, amico mio, è il capo della polizia, non ti puoi mettere a fare la polemica con il capo della polizia. Chi ci mettiamo lì? Buon anno, Calderoli. Questo devo dire la verità, è un po' esagerato. No, buon anno, no. Che chi ci mettiamo? La Mara Ventano? Chi ci mettiamo a capo? No, chiedo, non lo so. Chi ci Maroni, mettiamo? Maroni, magari. Eh? Maroni. Bobo è stato già ministro degli interni, quindi è come. Vabbè, fosse allora, il capo. Salvini, dov'era, per chi fosse interessato a questo dettaglio giornalistichese? Era a una manifestazione di un sindacato di polizia. E il capo di questo sindacato si chiama Tonelli, l'amico Tonelli. Vecchia conoscenza di questa zanzara. Beh, l'amico Tonelli, il quale dice: amico tuo, adesso non posso, io sono amico di tutti i poliziotti di tutte le forze dell'ordine. Anch'io. Li abbraccio fortissimo. Mio nonno era questore, vuoi dirlo a me? Ma chi se ne certo, frega? Ma io contesto, ma chi se ne frega che tu non eri questore? No, per dire che io non è che sono contro la polizia. Non è che se tu sei figlio di un questore. Sono cresciuto in un ambiente in cui non c'era nessun odio nei confronti della polizia, anzi, rispetto, amicizia. L'abbiamo capito. L'abbiamo già capito. Non c'è bisogno che ti giustifichi. Il comunista antipoliziotto, perché tu così mi fai passare. No, figurati. Tonelli dice che non posso guardare male un delinquente. Oggi adesso questo, francamente, caro Tonelli, anche questo mi sembra un po' esagerato. Secondo questo progetto di legge io non posso guardare male un delinquente o minacciarlo di dargli una sberla che ha appena rapito una bimbetta per cercare di forzargli la mano per restituire la bimbetta ai genitori. In tutto questo, col casino di Mafia Capitale, anche se qualcuno pensa che non sia mafia, ma siano solo quattro straccioni, che non ci sia, come dire, il sangue e il banditismo della Palermo degli anni Ottanta, e ancora una volta Giuliano Ferrara che dice questo, no? Contro le frasi dette, credo, qualche giorno fa dal numero 2 della Procura di Roma. Vabbè, ma lasciamo perdere questa cosa qua. In tutto questo casino di Mafia Capitale, in cui comunque c'è una capitale corrotta, il comune è corrotto, destra, sinistra, Alemanno, e poi anche esponenti del Partito Democratico, in tutto questo Roma vuole fare le Olimpiadi, cioè si candida a fare le Olimpiadi, e qui bisogna impedire fisicamente che avvenga questa cosa qua. No, anzi, le Olimpiadi come... a Roma è una follia straordinaria, una invece. Follia. Guarda, non ce l'avamo confrontati su questo, ma immaginavo dicessi, no, questa sciocchezza. Ragazzi, impedire sono eventi che portano per fortuna turisti, sì, opere in pubbliche. In Italia. Opere in pubbliche. Italia. Poi ovviamente bisogna vigilare che non ci mangino i ladri. In Italia. Beh, allora, in Italia a fare qualunque cosa. In Italia. Allora, in Italia. Fare qualunque cosa, dai, non ho capito. Su, cioè, tu preferisci, siccome rubano, preferisci non far nulla. Non siamo in grado di organizzare queste cose. Quindi qua. Non siamo in grado. Quindi preferisci non far niente. Scusa, ma abbi pazienza. Ma che è singolare. Comunque, sentiamo il signor Marino che dice: le Olimpiadi saranno un volano per la nuova città. Tra l'altro, non si capisce bene che fine faccia Marino, perché lui dice che resterà. Volerà anche lui come un volano. Volerà anche lui, sì, probabilmente volerà, volerà sì. Anche lui. Però Marino dice che nemmeno con i cannoni mi mandano via. Però in realtà, forse basta Renzi, non i cannoni. Perché sai Renzi. Che comincia a starmi simpatico, sto Marino. Ah, ti sta simpatico Cio Marino? Sì, perché ora battaglia. Non è simpaticissimo. No, no, perché ora battaglia e resiste, ha ragione, battaglia. Olimpiadi, Marino, Olimpiadi a Roma, da evitare. Noi abbiamo in mente una Roma diversa, una Roma ecosostenibile, una Roma con il trasporto soprattutto su ferro, una Roma insomma che guarda al futuro. Le Olimpiadi, come il Giubileo, saranno uno straordinario volano. ma che Roma vede, signor Marino? Quale Roma vede? La Roma col ferro, la Roma ecosostenibile, su, la Roma così virtuale, dai ragazzi, su, dai, siamo seri, dai. Non so se qualcuno conosce, la signora Zampa. La signora Zampa, per il grande pubblico della radio, il grande pubblico della Zanzara, è in realtà una deputata del Partito Democratico prodiana, di scuola prodiana, cioè è lì perché rappresenta Prodi, diciamo la verità. Insomma, no, con le liste bloccate, è lì perché è in quota Prodi, uno dei residui della quota Prodi, ma lo dico con grande rispetto, per carità, però questo è. Cioè, Zampa dice: se uno rimpatria gli immigrati, non si deve limitare a rimpatriare, perché adesso c'è tutta il nuovo salvinismo di Renzi, no? Che dice che bisogna rimpatriarli, che non è uno scandalo, eccetera, eccetera. E la signora Zampa dice che non bisogna limitarsi a rimpatriare questi profughi, bisogna dargli anche dei soldi. Dei soldi perché là possano poi iniziare un'attività economica. Cioè, mentre in Italia la gente ha la disperazione, le banche, eccetera, comunque in grande difficoltà, molta gente in grande difficoltà, è il caso di dirlo. Che succede? Cioè, la Zampa vuole rimpatriare i profughi, però insieme al rimpatrio degli immigrati, no? Adesso sono arrivati, anche il governo di Renzi è arrivato a dire che gli immigrati per motivi economici non si possono lasciare in Italia, bisogna rimpatriarli. Adesso ci sono arrivati, dicono a parole. No, non bisogna limitarsi al rimpatrio! Bisogna dargli dei quattrini per fare delle attività economiche in loco! In loco! Naturalmente io sono tra quanti pensano che i rimpatri hanno un senso se sono accompagnati, e cioè per esempio appunto danno la possibilità a chi viene rimpatriato di avere un lavoro a casa sua, e quindi per esempio c'erano stati provvedimenti che prevedevano piccolo incentivo economico. Giampiero Gramaglia. Cifre piccolissime possono aiutarti a casa tua. Traffico veicolare. Questa informazione, Cruciani, questa informazione. Allora, prima di iniziare la sarabanda delle telefonate questa sera, voglio dirvi una cosa su una frase del Papa. Ora, il Papa ha detto che la separazione dovrebbe essere inevitabile, qualcuno ha preso questa frase come una grande rivoluzione di Papa Bergoglio, se c'è una violenza all'interno della coppia. Ora io dico, chi viene picchiato all'interno di una coppia e non chiede la separazione è un coglione a prescindere, al di là del fatto che poi la chieda o non la chieda. Se uno ti picchia, ti mena, ma amico mio, ma che vuoi fare? Non ti vuoi separare? Vuoi restare insieme? Resta insieme, benissimo, poi però non rompere i coglioni. Dunque, la grande frase rivoluzionaria del Papa, perché ha parlato di separazione. Ma amico mio, ma ci dobbiamo arrivare dopo quanti anni? La Chiesa deve arrivare che se due si menano, uomo o donna che sia, insomma, è il caso di distinguere le vite, no? Di separare le vite. Dai, su, la grande frase rivoluzionaria. Ma dopo quanti anni ci deve arrivare la Chiesa questa ovvietà? Gennaro, Napoli, vai. Gennaro. Io sono veramente tra avvilito e disperato per la ultima sortita di Salvini sulla tortura, perché io, che come molti ritenevamo che fosse l'unico argine per la difesa della civiltà occidentale, che risale a Beccaria, che ha bandito la tortura come la cosa infame, poi vediamo che siamo invasi da questi che stanno nel pieno Medioevo, e chi ci dovrebbe secondo me difendere ci propone il Medioevo europeo. Ma a questo punto, scusi, io veramente non so che fare, mi cascano le braccia. No, ma scusi, bravo, ragionamento perfetto, scusi, grazie, altra chiamata. Allora, fermo un attimo, Gennaro, io non ho capito una cosa, al di là delle cose tecniche, reato di tortura come viene formulato, e che è molto importante naturalmente, no? Beh, già di fatto ci sarebbe qualcosa di simile, ma tanto non si applica e si sa perfettamente che certi fatti in certe epoche. Sì, ma non è che se c'era il reato di tortura non venivano condannati alcuni poliziotti. Va benissimo introdurre tutto quello. Non li hanno mai condannati, quindi lasciamo la frase stare. La frase di Salvini è abbastanza chiara. Se un delinquente per strada viene pizzicato dalla polizia, rincorso dalla polizia, e questo qua viene preso per il collo, cade, è un'altra cosa. Si sbuccia il piede, è un'altra cosa. Il reato che viene proposto riguarda altre condotte, altri comportamenti, che non è la sbucciatura quando uno cade per strada. Ma questo è vero, infatti. Quando uno infatti mi viene a dire la polizia e i carabinieri devono fare quello che vogliono, non va bene, perché noi viviamo in uno stato di diritto, noi viviamo in uno stato che sia della cultura umanistica. Salvini, sì, vabbè, ma Salvini dice semplicemente che la polizia, diciamo che stanno nel medioevo, anche noi. Gennaro, il problema fondamentale è che c'è un principio. Oggi la polizia spesso ha timore ad agire in alcuni casi perché ha paura di essere portata in tribunale, perché se prendi qualcuno e gli dai una manganellata in testa, come spesso è il caso di fare durante manifestazioni violente, passi guai. Questo vuole dire una cosa molto semplice. Ai processi, ma che poi passino guai. Va bene, quello è un altro discorso. Successo, va bene, grazie. Rossano Grosseto. Sì, mi senti? Sì, dimmi. Ecco, a me al contrario invece di Gennaro, le parole di Salvini su questi poteri pieni alla polizia mi hanno proprio emozionato, guarda. Magari io ho anche votato Salvini alle ultime amministrative e sono contento e sempre più fiero di averlo fatto. Oltre per la questione. Ma perché ti fanno emozionare queste frasi? Dimmi. Perché secondo me è già tardi, ma bisogna iniziare ad agire in questa maniera. Mi fanno emozionare proprio perché siamo oramai maturi per delle situazioni in cui bisogna rimettere a posto tante cose. Cioè, io nell'ultimo mese, cioè se basta andare a giro per le strade, volevo fare l'esempio che nell'ultimo mese e mezzo io sono stato ad Amsterdam, in Germania e a Barcellona. E quando vai a giro per queste strade qui, di questi posti, ti senti più sicuro che in Italia. Vai a Barcellona, in ogni piazza ci sono ben presidiata dalle loro forze d'ordini. Cioè, non ho capito, allora secondo te il reato di tortura non va introdotto? Ma a me il reato di tortura non te ne può fregare meno. In Italia il reato, ma che vogliamo scherzare? Siamo il paese dove tutti possono fare di tutto, non viene punito nessuno, c'è il teatro. Ho capito perfettamente. Ciao, Francesco, Pisa. Francesco, vai, dimmi, veloce, vai. Volevo dire, secondo me il discorso di Salvini potrebbe essere interpretato, cioè voi lo interpretate in questo modo, diciamo come un motivo per far sì che la polizia possa far meglio il proprio lavoro. Però secondo me il discorso è molto pericoloso, perché se noi vediamo le dittature, i regimi, diciamo più o meno, cioè tu dici nelle dittature, adesso cerco di riassumere, nelle dittature è proprio questo che la polizia fa, cioè può fare il cazzo che vuole, questo è il punto. Esatto. Cioè Salvini immagina uno stato dove la polizia può torturare, fare eccetera impunemente, non è che ha detto esattamente questo, comunque. No, però e soprattutto ora c'è un pericolo maggiore, perché con l'avvento delle nuove tecnologie un messaggio di questo genere apre la strada al Grande Fratello. Cioè, che vuol dire il Grande Fratello? Non ho capito. Al Grande Fratello, cioè un Il Grande Fratello è proprio l'antidoto migliore agli sbagli della polizia, alle torture, cioè alle telecamere, no? Cioè i frammenti di fotografie che spesso vediamo durante le manifestazioni. Se si giustificano certi comportamenti coadiuvati da un controllo da parte dello Stato di ogni minimo aspetto della vita del privato cittadino, si ha un connubio su cui diventa una cosa. Ettore Piacenza, vai, Ettore. Ciao, buonasera Cruciani. Non capisco dove io apparenzo. Io ho fatto militare nell'arma di carabinieri molti anni fa e mi onoro tuttora di avere amici carabinieri, poliziotti e finanzieri. Che dicono? Dicono che sarebbe ora che venisse ripristinata la legalità in Italia, nel momento in cui gente si fa il mazzo e rischia la vita per difendere i cittadini, li buttano dentro, come sono dentro li buttano fuori, con delle problematiche anche che quando arresti una persona ci sono le situazioni più disparate, per cui bisogna stare molto attenti a parlare di cose che non si allora conoscono. Ettore, però la cosa è molto chiara, in questo progetto di legge, senza entrare nei dettagli, è prevista una roba che tu puoi essere anche punito per tortura quando vuoi vincere una resistenza. Allora, se uno vuole vincere una resistenza da parte di un delinquente, di una persona che tu pensi sia un delinquente, non è che puoi essere accusato poi di tortura, perché poi nei dettagli della legge si aprono i processi contro le forze dell'ordine, le denunce eccetera eccetera. La tortura è una roba ovviamente grave, ma quando è ripetuta, cioè gli aguzzini vanno puniti, i torturatori veri vanno puniti, ma che non quelli che magari in piazza prendono le persone, ma è evidente che non stiamo parlando del medioevo in cui c'era la uno veniva garrottato, ti ricordi sai cos'era la garrotta? Sì. Non è di quello, cioè perché bisogna sempre dare un'immagine stupida delle cose? Vabbè, senti, non c'è nulla di tutto questo, non c'è il fuoco, non c'è uno che ti insegue con una lancia di fuoco, non parliamo di questo. Però ci sentiamo dopo il giornale Barbari. Dopo il giornale radio. è mai andato in psicoterapia e che sicuramente il suo psicoterapeuta non vale molto. Parenzo, curalo Parenzo, insomma curatevi uno con l'altro che avete bisogno di cure voi due. Ciao. Allora vi faccio ascoltare adesso una frase che ha detto il vicepresidente del Senato, credo, si chiama Fedeli, quella con che ogni tanto sì, qualcuno di voi vede in televisione con i capelli rossicci, sì, con i capelli rossicci. Che ha detto che la piazza, quella del Family Day, cioè quelli che manifestano a favore della famiglia tradizionale, contro i matrimoni, eccetera, eccetera, eccetera, è una piazza violenta. Proprio così ha detto, violenta. Ora, io sono contro tutto quello che si diceva in quella piazza, tutto. Però, amico mio, c'è il diritto di manifestare, amica Fedeli. C'è il diritto di manifestare in questo paese, una manifestazione pacifica dove non è successo nulla, sì, le parole non erano parole violente, erano parole di persone. Parole violente, quelle violente. Si può discutere, di questo si può discutere. Veramente può discutere. Voi siete razzisti, voi siete veramente razzisti. Io discuto nel merito delle singole cose. Ma parole violente, quali sono le parole violente? Ma scusami. Abbiamo fatto sentire ieri. Ma lascia perdere ieri, quel tizio. Signore molto simpatico. Vabbè, ma dai. Ma quello non è violento, ma no, scusa. Ma dai, ma la violenza è un'altra cosa, dai. La violenza è un'altra cosa. Essere violente, ma quello poi no? È un altro discorso. No. Sto dicendo nel complesso, chi manifestava in quella piazza non è violento, esprime delle idee a mio parere assurde sulla famiglia tradizionale, eccetera eccetera, però legittime, assolutamente legittime. Beh, nessuno mette in discussione questo. E allora questo. Basta, non sono parole violente, dai, si su. Può giudicare. Parole violente. Vabbè, allora parole violente. Vabbè, d'accordo. Ho visto anche un linguaggio che ha accompagnato la fotografia della senatrice Cirinnà, quella di Scalfarotto e la mia, che non mi aspettavo da insegnanti, da educatori e da genitori. Era una piazza veramente che violenta da un punto di vista del linguaggio. Ma ragazzi, in tutte le manifestazioni ci sono ministri da una parte o dall'altra raffigurati come dei mostri, raffigurati come delle persone che vogliono il male delle persone. E dai, su, dai. Poi dice: se non educhiamo alla diversità i ragazzi si suicidano. Cioè, secondo questa signora, questo è molto giusto. Ah, è giusto. Poi ti dirò una cosa. Ti ho detto che ci sono stati casi di ragazzi che le cronache lo hanno raccontato. Ma che vuol dire educare la diversità? Di non ho capito. Che vuol dire educare la diversità? Omosessuali che si sono uccisi per la vergogna, per la propaganda. Ma che vuol dire? Ma che vuol dire educare alla sessualità intorno? Ma che vuol dire? Vuol dire educare alla diversità. Ma che vuol dire? Concretamente, che vuol dire? Concretamente, nelle scuole che cosa bisogna fare? I corsi vuol dire di omosessualità. Che oltre al fatto che ci sono delle persone a cui piace leccare i piedi e essere cornuti, e va benissimo e va accettato. Ci sono anche persone che amano persone dello stesso sesso. E se questo viene considerato normale. Questo non le carichi. Ma non lascia perdere. E diventa terreno. Ma secondo te bisogna insegnare l'omofobia? Bisogna insegnare l'omosessualità a scuola? No, cosa vuol dire? E questo è. Vuol dire parlare contro l'omofobia. Vuol dire segnalare i casi di omofobia. Questo vuol dire. Lo facciamo sempre anche noi. Perché ci sono un sacco di ragazzi che si sono uccisi. Ma si suicidano per altre cose. Dai, su. Altre cose. Se non portiamo un'educazione o un rispetto nelle scuole sulla diversità, può succedere che purtroppo ci sono ragazzi che, non accettati per quello che sono, per come nascono, poi si suicidano. E di chi è la responsabilità? Allora, io ti dico una cosa, ha parlato chiaramente di scuole. Il punto è molto semplice. Non c'è bisogno di insegnare cultura gay nelle scuole. No, aspetta, gay. Non c'è bisogno di parlare di omosessuali, di gay, di genitore 1, di genitore 2. Non c'è bisogno. Se un maestro o una maestra, un professore o una professoressa si azzarda a spiegare, per esempio, faccio un esempio molto concreto che mi riguarda. Se un maestro o una professoressa si azzarda a spiegare a mia figlia che ha 10 anni che ci sono i gay, che ci sono i trans, che ci sono gli omosessuali, gli faccio un culo così. Gli faccio un culo così. Lo faccio io quando mi pare, se mi pare e all'età che voglio io, altrimenti sarà la vita a spiegare in maniera molto chiara che esistono persone che amano gli uomini, uomini che amano gli uomini, donne che amano le donne. Un professore a scuola non mi può rompere i coglioni con queste cose. Dunque la scuola va tenuta lontana da queste puttanate. Chiaro? Se una professoressa, un professore della scuola dove va mio figlio, si azzarda a parlare di omosessuali, di gay, di diversità, de froci, de ne froci, gli faccio un culo così, chiaro? E ti parla uno che è favorevole ai matrimoni gay, all'adozione gay, alla diversità, il massimo possibile della libertà. Però la scuola, no, sono i genitori, casomai, se vogliono loro, a spiegare la differenza. Uomini, donne, ci sono pure i froci, ci sono gli omosessuali, ci sono persone che lo pigliano in quel posto, ci sono persone che fanno sesso con lo stesso. Casomai, altrimenti sarà la vita, come è normale che sia. A scuola i corsi di queste robe qui mi fanno schifo a me. Per fortuna non ci sono, semmai ci dovessero essere, mi fanno schifo questi corsi qua. Mi fanno schifo anche a me, che sono per il massimo della libertà, chiaro? A proposito, Luxuria, senti che frasetta che ti ho beccato della signorina Luxuria, dell'amica, dell'amica Vladimir. Alle donne io consiglio, lasciate perdere i principi, mettetevi coi contadini che oggi guadagnano più loro, investite sulla zucchina. La frase è piuttosto ambigua, cioè bisogna investire sulla zucchina, non no, capite nel male. Senso di contadini. Nel senso di contadini, sì, però certo, non è. No? Non ha detto il pomodoro. Investite sulla zucchina piuttosto che, ha detto, che sui ricchi, sui principi. Sposatevi un contadino. Essa amica mia, va bene tutto, però uno se sposa sul contadino si è innamorata del contadino. Diciamo che il denaro non fa male, però, pensare anche al denaro. Katia, provincia di Pordenone. Buonasera, signor Cruciani. Buonasera, dimmi. Parenzo. Io volevo intervenire per quanto riguarda i poliziotti e la frase di Salvini, però mi tirate la volata per quanto riguarda gli insegnanti. Ognuno deve rispettare il proprio ruolo, l'insegnante deve insegnare, il genitore deve educare. L'educazione è propria del genitore. Ma insegnassero la matematica, l'italiano, non ma non avviene per fortuna, Per fortuna non avviene. Dico, semmai dovesse avvenire che qualcuno vuole introdurre corsi assurdi a 9-10 anni di orientamento sessuale, se lo può scordare, a mio parere. Assolutamente. È la stessa cosa ai poliziotti. I poliziotti devono fare il loro lavoro. Vabbè, quello nessuno lo mette in dubbio, però dai, su, se però uno commette dei reati, se tortura. No, non sono messi in condizione di farlo bene. Vabbè, perché purtroppo cade qualcuno, si sbuccia, si spacca la gamba, come diceva lei, e alla fine vengono messi alla gogna soltanto perché hanno fatto il loro lavoro, hanno paura anche loro di esporsi. Va bene, grazie. Perché... Stefano da Padova, vai Stefano. Buonasera. Io, se permettete, vorrei tornare un attimo sul discorso di ieri di quell'ascoltatore che voi avete un po' così simpaticamente deriso, perché diceva che aprire i matrimoni omosessuali comportava poi il rischio di aprire anche la poligamia ad altre forme di unione. Che sì, non... follia totale. Beh, però, se mi permetti, io vorrei dimostrarti che non è poi così folle questo ragionamento. Premetto che io sono d'accordo con voi sul fatto che devono esserci le unioni omosessuali che attribuiscono gli stessi diritti del matrimonio, su questo non ci piove. Però secondo me il rischio paventato dall'ascoltatore non è così assurdo, perché... Ma anche lei vuole da... anche lei vuole un'ambulanza? Vuole un medico bravo? Ma o no? Aspetti. Cioè, aspetti, non ho capito, se uno introduce... Io... Ragazzi, ci sono paesi che da anni hanno... la Germania, c'è la Germania che ha il matrimonio omosessuale, più o meno, un'altra istituzione che non si chiama matrimonio, ma l'unione tra persone dello stesso sesso. Non mi pare che sia stata introdotta la poligamia in Germania. No. Però, se uno si vuole sposare con cinque donne, non si può fare. E non si fa, e per fortuna in Occidente non si potrà mai fare. Chiaro, non si potrà mai fare in Occidente una cosa del genere. Posso completare il mio ragionamento? Poi se non è completa sto ragionamento, ma me l'hai detto tu, ma è inutile. Il ragionamento di che? Se già dall'inizio hai detto non è del tutto assurdo pensare che se viene introdotto. Vabbè, dimmi, avanti. Ti suggerisco solo una riflessione, poi se non sei d'accordo non c'è nessuno. Ma dimmi, non so quale riflessione ci può essere dopo quello che io hai detto. Io sono d'accordo con voi sul fatto che ci deve essere una piena parificazione, però secondo me dipende dal presupposto da cui si parte. Cioè, se si parte dal presupposto che esiste un modello di famiglia naturale, che è quello fra uomo e donna, poi si accetta che lo Stato parifichi delle altre unioni a seconda che le ritenga più o meno confacenti al suo sistema. Per esempio, l'unione omosessuale non comporta nessuna controindicazione, quindi viene parificata. Ma no, l'unione ma poligamica invece. Ma non è la stessa cosa. Ma perché bisogna ragionare per ipotesi assurde? È un'ipotesi irrealizzabile. È un'ipotesi irrealizzabile perché nessuna società in Occidente potrà mai prevedere il fatto che ci si sposa con quattro persone in contemporanea. Ma non è vero. Guarda, non è vero. Posso darti una dimostrazione? Dammi la dimostrazione. Avanti, dimmi. Allora, c'è la direttiva sul ricongiungimento degli extracomunitari che dice che tra i familiari che possono chiedere ricongiungimento c'è anche la seconda, la terza, la quarta moglie del rapporto politico. Però amico mio, d'accordo, adesso questi, ma io lo so, ma questo qua è un dettaglio che riguarda alcuni paesi in cui c'è la poligamia, ma non c'entra niente con l'introduzione della poligamia, non diciamo però, cazzate, dai, Francesco da Roma, dai, Francesco da Roma, ho capito, ma è una cazzata, Francesco da Roma, dai. Pronto, buonasera. Dimmi, dimmi. Senti, volevo intervenire sul fatto dei Salvini. Sì, dimmi. Perché è una vergogna, che ha ragione Parenzo. Cosa è una vergogna? È la frase quello che ha detto, no? Perché anche perché la polizia e i carabinieri, perché cosa sono stati creati? Per difendere noi italiani, no? Sì. Se noi al minimo reato prendono e ci compiano, cosa che già fanno, è una cosa, fanno una politica del terrore, no? Il più grande caso di altruismo in Italia è quando c'è stato posto di blocco. Tutti quanti si fanno i fari, perché? Perché polizia e carabinieri fanno la politica del terrore. Quello non c'entra nulla, amico mio. Il posto di blocco è sacrosanto. Va benissimo, ma comunque il corpo dei carabinieri e della polizia fa una politica del terrore su noi italiani. È una cosa, questa è una stronzata, questa è una stronzata. La politica del terrore non esiste. Io non sono mai stato, non è vero. Dipende cosa fai, amico mio. Molte fai conto con una canna. Quelli te gonfiano, te menano. Ma chi l'ha detto? Ma quando mai sarà successo? Quando è successo, allora, in alcuni casi hanno sbagliato, se ti pigliano con una canna, purtroppo per le leggi italiane ti devono controllare i documenti, mentre secondo me uno potrebbe fumarsi la canna. E allora perché le gonfiano? Ma che gonfiano, ma dove, no, come, è quando, perché? Ma io ho conosciuto gente che quando è successo, a pisciarsi addosso per non farsi menare. Francesco, ma quando è successo? È sbagliato. E quando è sbagliato, sì, ma se questo è fermo, fermo lì. I love you. I like a virgin. Ormai è tutto degradato. Allora, vi avevamo raccontato ieri la storia di questo signore, Massimo Revolini, accusato di duplice omicidio, oltre che di rapina, condannato a 44 anni di galera, 44 anni di carcere, che è stato condannato in primo grado, per carità, però 44 anni per duplice omicidio, occultamento di cadavere e altre cose ancora, eccetera. Volete sentire la voce di uno che è stato condannato a 44 anni? Perché questo è significativo. La voce in carne e ossa di chi è stato condannato a 44 anni di carcere, perché lo abbiamo chiamato a casa, ma purtroppo non vuole parlare. Cremorini? Sì. Cruciani, la Zanzara? Ah, dimmi. Tutte queste polemiche sulla tua condanna a 44 anni, invece sei fuori dal carcere? Non ti so dire niente, non ci rimane male, ma ti devo staccare. No, aspetta una. No. L'avvocato è il mio avvocato. No, ho capito. No, ti devo staccare, non ci rimane male. Ma no, io non. Non ci rimaner male. Ora, ho letto oggi, credo sul Corriere del Veneto, un articolo che mi ha fatto ricordare una vicenda personale, un'incazzatura pazzesca. A te è mai capitato che ti hanno rubato, che ne so, la macchina, il motorino e poi l'hai ritrovata, David? La macchina no, perché la patente l'ho presa a febbraio. Il motorino nemmeno, perché figuriamoci. No, il motorino l'ho sempre guidato e me l'hanno rubato una volta quando ero al liceo. Ma non l'hanno mai ritrovato. Non l'hanno mai ritrovato. Allora, tu devi sapere che quando ti rubano un motorino e poi te lo ritrovano, inizia un'odissea che tu non hai idea. Oggi un tizio, credo un giornalista, Alessandro Maciò, sulla Corriere del Veneto, racconta la sua storia pazzesca, fatta soprattutto di impazzimento burocratico. Cioè, quando ti ritrovano una macchina rubata, spendi quasi più soldi che per ricomprarla. Una cosa incredibile, cioè praticamente ti fanno un furto, un danno, e lo Stato ti fa pagare il danno che hai subito. Una roba incredibile. Pazzesco. Incredibile. Allora, eravamo con chi? Con nessuno, no? Eravamo sì con Francesco, dai Francesco, che volevi dire? Non c'è? Andiamo a Palermo, Ivan. Sì, buonasera. Dai, dai. Io avevo chiamato per protestare un po' contro il parere di Parenzo sul discorso della Family Day. Però devo dire che Cruciani, mi hai praticamente anticipato con quello che hai detto poco fa, praticamente hai percorso esattamente tutto quello che avrei voluto dire. Ma su che cosa? Però dimmi, vai al sodo, vai Ivan. Sul fatto che io ho sempre detto che se un insegnante si permette di cominciare a parlare a mia figlia di 6 anni a scuola, in prima elementare, di sessualità, di diversità sessuali, eccetera, eccetera, vado a scuola e gli faccio un culo tanto. Quindi hai esattamente dato la dimensione di quello che era il mio parere. E volevo dire proprio questo a Parenzo. Io non ho mai sostenuto, però, scusami, di fare delle lezioni di omosessualità. Non ho mai detto una cosa simile io. Ma a quanto so io, a quanto ci stanno insomma informando, perché comunque l'informazione è allora... un po' a macchia. Si potrebbe correre il rischio che proprio fin dalla tenera età possano essere fatti dei discorsi insomma molto pesanti per i bambini, perché comunque tutto deve cosa avere, vuol dire pesanti? Tutto, pesanti significa che dei bambini, come diceva Cruciani, che possono i bambini essere si per può tempo, spiegare per tutto questo è il senso. Sì, ma lo devono fare i genitori, sì, non i maestri. Ovviamente sì, ma devono farlo i genitori, devono farlo quando è giusto farlo, con degli equilibri ben precisi. Ovviamente ogni genitore conosce perfettamente i propri figli e quindi può farlo quando è giusto farlo per loro. Va bene, per Giuseppe, ho capito. Okay. Ivan, okay. Giuseppe, okay. Provincia di Milano, vai, Giuseppe. Sì, io sono un po' fermo, nel senso che sono ancora legato al discorso della riapertura. Vai, forza. Allora, io prendo adesso una persona, a quel punto parto con una presunzione di colpevolezza, se devo applicare il discorso di metterlo sotto pressione fisiologica o psicologica. Ora, poi no, le persone capito, sono però, diverse. No, non ho capito, però spiegami bene. Spiegami. Allora, vai sul concreto. Devo prestare, far confessare una persona, in che modo posso prestarlo? Ma se tu devi far confessare una persona e commetti dei reati, cioè, quello è evidente che quello va fatto. Se non c'è questo reato va introdotto, infatti, su questo non infatti, c'è dubbio. Ma appunto, allora se io tu dico, eserciti pressione, innanzitutto andiamo incontro a una serie, che se non ottengo quello che voglio, no, avrò tutta una serie di ricorsi che dovrò quantificare e pagare. Uno. Secondo, a questo punto, se io non arrivo, innanzitutto devo capire qual è il livello per cui a un certo punto dalla pressione passo veramente alla tortura fisica, perché tu dici, va bene, no, dimentichiamoci il sangue, ok, perché no? Vabbè, Giuseppe, qual è il limite? No, non ho capito niente. Poi l'altra cosa, io lo porto direttamente in tribunale, non faccio alcuna pressione in sede, diciamo, in una camera. Grazie, non ho capito, ciao. Nulla. Allora, vogliamo risentire intanto le frasi di Salvini? Risentiamo. Ci vuole libertà di azione assoluta per polizia e carabinieri. E se devo prendere per il collo un delinquente, lo prendo per il collo. E se si sbuccia il ginocchio o si rompe una gamba, cazzi suoi. Evita di fare il delinquente, così non si sbuccia il ginocchio e non si rompe la gamba. Mai come in questo periodo gli uomini della Polizia di Stato si siano sentiti abbandonati non solo dalla politica ma anche da alcuni loro dirigenti. Ritengo che l'attuale capo della Polizia di Stato non sia il miglior capo della Polizia di Stato possibile. Mario da Roma, dai! Peppe! Dimmi. Peppe, ha rotto il cazzo, Peppe, costi feroci. Ma ti rendi conto? Allora, di stronzate ne diciamo tutte, vabbè, ma quella che hai detto adesso è una grandissima stronzata, caro mio. Ma come? Un uomo come te, della libertà, le unioni, il matrimonio, poi dici che a scuola non c'è piglio la professoressa che parla a mio figlio di gay, No, non ho detto questo di che. Come di no, di che? Sì, anche certo, no, da parte che gonfio. Te come una zampogna. Senti, amico mio, non hai capito la differenza. Essere a favore dei matrimoni gay, parlare a scuola ad un bambino da parte di persone che non sono i genitori di differenze gay, omosessuali, eccetera, non è proprio la stessa cosa, Non è la stessa cosa. Diciamo tutta com'è, che parlarne a scuola non è giusto, ma nemmeno dare un'adozione ai gay è una grande stronzata. Questo io te lo voglio dire da una vita, mostra vero, ho colto l'occasione perché ma quello è un altro discorso che c'entra. Tu ti batti tanto per dare i figli ai gay, allora ma scusami, no, io sono che l'amore va sempre premiato, ma come io non voglio decidere della loro vita, come puoi decidere della vita di un neonato che non sa dove va a finire, cioè, hai capito? Se va fa due uomini, fa due secondo te questa, cioè, è una cosa giusta, dimmi. Guarda, questo no, tu guarda, ci devi riflettere, caro mio. Poi mi dici che a scuola non si può parlare. Non ho bisogno, a parte che non c'è contraddizione, ma non ho bisogno di te per rifletterci, grazie. A Cruciani, ha decaduto. Con noi Parenzo, l'uomo della palandrana, Gianluca Buonanno, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Che c'è Parenzo, hai un modo di stizza? No, per carità, andiamo avanti, va bene. Hai un modo di stizza, che c'hai? No, che c'hai? Io saluto David, che gli voglio tanto bene io. Buonasera onorevole Buonanno, buonasera. Ciao David. Buonasera. Non ho capito, madonna, perché ti hai irritato tanto quando parlava di palandrana avanti, con quel signore l'altro giorno del debito? No, ma dimmi, perché ti sei irritato quando parlava di palandrana? Poi lo farai risentire, ma spero, no, perché ho delle cose da dire su. Ma perché, non ho capito, qual è il problema? Se avanti, grande pezzo avanti di teatro, no? Beh, volgare, offensivo, cattivo, offensivo, scusami. Volgare. Uno offensivo. Che ha la palandrana dice di essere italiano, io non ho mai visto un italiano cattivo con la palandrana. Politicamente non è vero che è politicamente scorretto, proprio cattivo. In una parola si potrebbe dire, qualcuno potrebbe chiamarla parolaccia, in questo caso. Ma non credo, perché l'hai chiamato Cimabue? Non mi ricordavo il cognome, mi sembrava tipo Cimabue che fa una cosa nel sbagliato. Carabue là, come si chiama? Ah, Carabue, sì. Però uno che si presenta con la palandrana. Ma cosa te ne frega te, guarda che ti presenti tu col fazzoletto verde? Fare, ma perché è bello il fazzoletto verde della Padania? Eh? Mi ci soffio il naso io col fazzoletto verde della Padania libera. Ma che cosa c'entra solo il fazzoletto verde della Padania? Perché sei bello tu col fazzoletto verde della Padania. No, cioè uno non può uno mettersi una palandrana, un turbante sulla testa. Ma insegnarci cosa dobbiamo fare quando sappiamo che gli africani, per una serie di motivi, non sono capaci come i bambini, bisogna seguirli costantemente, che non sono capaci di gestirsi. Infatti, cioè, in che senso non sono capaci di gestirsi? In che senso che non sono capaci di gestirsi? Perché non sono riusciti nel corso dei decenni a fare qualcosa che gli permettesse di essere indipendenti, di essere. Cioè, tu sei a favore della sei a favore della colonizzazione? Beh, l'unica civiltà che hanno conosciuto in maniera concreta è stata quando ci sono state le colonie, quello sicuro. Ma hanno avuto dei dittatori sanguinari. Loro non hanno mica pensato tanto quando hanno dovuto mandare via o ammazzare o lasciarli senza neanche più un centesimo, gli italiani sono tutti a scappare. Ma tu dimentichi il grande Nelson Mandela, perché devo parlare con questo personaggio qua di questo? Ovviamente Nelson hai offeso pubblicamente una persona solo per il suo abito, ma tu esci da quel varallo Sesia, vai un po' nel mondo, a New York hai mai preso un taxi guidato da un Sinti, hai mai preso ad esempio un autobus guidato da un indiano, ma che cazzo però fai tutto nella tua vita, stai solo a varallo Sesia, ma io non ho. Non è che danno le lezioni agli altri, questo qua è arrivato dall'Africa con la palandrana. Questo qua è arrivato dal docente universitario a Napoli. Questo già si fa capire quanto le università al sud funzionino con uno così che fa il docente. Cosa c'entra? Quando dicono che le università al sud non funzionano, basta vedere sto tipo che va all'università con la palandrana. Io fossi uno che va all'università mi spaventerei a vedere io mi spavento se vedo uno come te col fazzoletto verde. Ma tutto quello che trovano in Italia questi signori è frutto del sangue, del sudore e del lavoro di secoli e secoli da parte degli italiani. Vengono qua e vogliono comandare, vengono qua e vogliono giudicare, vengono qua e pretendono. Calma, calma. Ma scusa un attimo, secondo te dunque gli africani come sono? Gli attrezzisti preparano sono come dei bambini, sono come dei bambini, quindi bisogna accompagnarli in tutte le cose perché altrimenti fanno pasticci e ci sono pasticci dappertutto. Cioè sono un po' 4 minuti all'ingresso dei giocolieri si preparano per cortesia. 4 minuti all'ingresso dei giocolieri. In realtà sono un po' invece per l'ingresso degli stronzi c'è già Parento che è già venuto fuori. Ma scusa, non ho capito Gianluca, allora sono un po' inferiori come civiltà, tu dici? Ma non è che la questione di inferiorità, diciamo, però è la storia che lo dice. Noi avevamo il Rinascimento, loro raccoglievano le noci di cocco. Noi siamo andati avanti, noi inteso gli europei, comunque l'Occidente, e loro con molta difficoltà poi siamo andati, anche gli italiani ci sono andati, hanno quando è che ti fai sparare dal cannone, come la donna cannone del circo? Quando hanno commesso degli errori, ma nello stesso tempo sei anche basso civiltà. Abbastanza. Le opere pubbliche che hanno adesso in Africa ancora risalgono, per dire quello che ha fatto l'Italia, risalgono molto spesso all'epoca del fascismo. Volevo fare una domanda, ma non Buonanno. Come ti stai preparando a fare il proiettile del cannone? Il fascismo ha portato comunque dei benefici anche, non è che sono andati là solo... Cioè il fascismo ha portato civiltà, tu dici? Sicuramente gli ha portato più civiltà che quello che hanno combinato dopo. Ma tu sei più bravo come giocoliere o come uomo pallottola, sparato dal cannone? Non ho capito devo ancora. Dire, Parenzo, veramente, io ho solo una grande qualità, che riconosco gli stronzi, anche al telefono. Beh, allora dovresti... con te stesso ogni giorno dovresti averne hai a che fare con te stesso ogni giorno, è dura, eh? Come si fa ogni giorno? Ma sei sempre simpatico. Io voglio capire una cosa, ma a proposito, voi due quando è che andate a cena insieme una volta? Parenzo, tu e Buonanno, non ho capito. Io adesso è tanto che non vado né a Bruxelles né a Strasburgo. Ma io voglio capire una cosa, gli africani alla fine hanno una civiltà inferiore, diciamolo chiaramente, tu pensi che siano inferiori, noi siamo superiori. Hanno una storia che sicuramente rispetto all'Occidente non è la nostra storia. Sì, sicuramente non hanno mai inventato puttanate ma anche nella religione, sicuro, scusate, la religione islamica dice vabbè, non è che sono tutti islamici in Africa. No, certo. Lo salvo, il grande generale, però quello che professa Maometto con il Corano, ovviamente ci sono delle cose che uno rimane abbastanza abbastanza allibito. Senti, a proposito, andiamo alla cosa. Rimane anche allibito se un africano viene qui e vede un signore che va con l'ampolla. Se viene un africano qui rimane allibito uguale, bene, perché altrimenti torna a casa sua. Io sono per portarli davvero con il barcone e portarli indietro, Cioè in Australia li pagano per tornare indietro. Sei d'accordo? Sei d'accordo? Guarda, io li porterei indietro senza pagarli, che sarebbe molto meglio. Vabbè, ma metti che non uno paga come partire. Ha fatto l'Australia, che hanno pagato alcuni scafisti per portare indietro. Bisogna avere questo coraggio. L'Australia è un esempio. Gli Stati Uniti, per entrare negli Stati Uniti, che è la democrazia più grande del mondo, non è che ti fanno entrare così, ti verificano tutto al contrario di tutto. Ma poi a proposito, si parla di come dire, per non farli arrivare sulle coste, così, di un'isola, no? Di Pianosa, per portare, per raggruppare e poi decidere i profughi, eccetera, eccetera. Io sarei d'accordo, anzi, io avevo proposto la Sinara, può essere anche Pianosa. Incominciamo a metterli lì, stanno in quarantena e vediamo un po' come sono sistemati, perché vedere portare tutti gli immigrati che arrivano sui barconi in un'isola a Sinara, a Pianosa, eccetera, in quarantena e poi vediamo, anche perché adesso, l'Italia la disumanità di quest'uomo, ma che disumanità, questo deputato, l'Italia che non parla è capace di persone di con questo linguaggio, quello che si dice, cioè i clandestini dai profughi, distinguerli, siccome il 90% rimangono clandestini e non sono profughi, incominciamo a verificarli invece che scappano in giro per l'Italia e poi per l'Europa. E poi l'altra cosa è che l'Italia invece di mettere 30 giorni ci mette un anno e mezzo. Ma scusa, allora per un anno e mezzo che tu non lo sai, oltre al fatto che bisogna mantenerli. Per cui tenerli dentro un'isola, però tenerli dentro un'isola sembra una cosa un po' sinistra, cioè come tenerli, che ne so, ad Alcatraz, come vanno tenuti? A me piacerebbe, se avessimo una Alcatraz secondo me non sarebbe neanche male. Tutti dentro un'isola tipo Alcatraz. Ma no, piuttosto che stare sul barco, io non li farei neanche partire, farei campi in Libia, in Tunisia, manderei soldi lì sicuramente per aiutarli, perché è giusto aiutarli. Parenzo, ma non reagisci? No, voglio soldare. Allo stesso tempo io li terrei in un'isola. Volevo chiedergli una cosa. Con i pesce cani intorno, però, che così non possono scappare. Sto comprando su Ticket Online. Sto comprando una roba con i pesce cani, che così non possono scappare. Certo. Sto comprando su Ticket Online i biglietti per lo spettacolo del Circo Buonanno a Cesena. Però dice che non ci sono né gli elefanti né i dromedari. Come mai non ci sono? Parenzo, se non ci fossi io, tu non saresti neanche esistito. Quindi questo mi pare un po'. Questo mi pare davvero veramente eccessivo. Sei la vergogna italiana. Sì. della delegazione italiana al Parlamento europeo. Allora, ti racconto questo. Dimmi. Sei la... Perché la gente con il voto si riconosce, quella piccola parte ha il gusto dell'orrido. Ci sono tanti buon anno in giro per l'Italia, sono contento. Beh, purtroppo, certo che sì, hanno il gusto dell'orrido. È come quando la storia adesso parlano dei delinquenti, no? Ma io sarei il manganello libero alla polizia. Ah, ecco, la polizia, sì, quello che ha detto... Ma adesso qui c'è il reato di tortura, quello che ha detto anche Matteo Salvini. Sì, scusi, ufficio prenotazione, non capisco. Ma cosa dobbiamo fare? Cioè aver paura di fare qualcosa rispetto ai delinquenti? Ma bastonarli! Bastonarli e senza pietà, perché uno che d'accordo. Decide di fare il delinquente, uno che decide di entrare a casa mia e di rubare, merita solo bastonate. Se non vabbè, d'accordo, però lui dice un'altra cosa. Ho acquistato il biglietto due giorni fa. C'è qui il titolare del circo, che è l'onorevole Buonanno, che mi dice che però non ci sarà più il numero degli immigrati che vengono sparati dal cerchio di fuoco. No, il numero degli stronzi con Parenzo che fa il capo. Ah, perché avete cambiato quel numero, ho capito. Certo, non ci sono più gli immigrati sparati dal cerchio di fuoco. Che fa lo stronzo. Ah, capisco. Ah, quindi verranno direttamente mangiati dai leoni. Però io voglio capire una cosa. Grazie. Allora, la questione della tortura per te è una follia, cioè nel senso non è una follia pura, quello che è successo anche al G8 l'ho già detto una volta, lo ridico. Cioè non si può adesso dire il reato di tortura per il problema. Cioè la tortura è legittima in alcuni casi, secondo te? Sì, ma poi non è neanche tortura, scusa, se tu prendi per il braccio, per il collo o dici qualcosa a un delinquente devi stare attento a quello che dice, che ti denuncia, ma ci mancherebbe. Se uno è delinquente e fa un'azione che non va bene, è giusto che possa avere delle ripercussioni, ma ci mancherebbe altro. Cioè prendere a manganellate, secondo te prendere sono i poliziotti. Questo uomo è uno scherzo della natura. Prendere a manganellate un manifestante che magari, che ne so, è in quel momento è legittimo. Tira le pietre, spacca le vetrine, cerca di bruciare l'auto della polizia, piccare duro senza quello pietà. Lì, manganellate senza neanche, ma nessun problema. E se poi ha qualche problema di salute, peggio per lui. Non aspettare che poi dopo alla fine c'è il processo, poi il poliziotto magari viene sospeso dal lavoro oppure gli riducono lo stipendio e il delinquente dice solo ho sbagliato, scusate, quando viene preso, cioè uno su mille viene preso. Fermi tutti che c'è la pubblicità, poi torniamo che vogliamo parlare di un'altra cosa con Buonanno perché ancora non è finita. Ma senta Cruciani, lei non mi è molto simpatico, però seguo la Zanzara dalle 6 del mattino a mezzanotte alla sera. E per rotte cazzo, per costi feroci. Allora, voglio tornare per un attimo sulla vicenda Sofri, la nomina poi mancata come consulente per la riforma delle carceri, eccetera, perché ieri mi è parso particolarmente felice invece l'articolo che ha scritto Marco Travaglio, il quale ha scritto che Sofri, ironicamente ovviamente, potrebbe insegnare alle giovani generazioni come ordinare un omicidio, scontare meno di un terzo della procenta. A me, è evidente che c'è è Travaglio, come scrive... Divertente, sì. Beh, come divertente, in che senso? Divertente... molto divertente, fa bene, fa ridere, uno ci fa due risate, ride. Ma è la realtà però. Questa ironia. A me diverte molto quando Marco scrive così, mi piace, quando Travaglio scrive così, sì, mi diverte. Allora siamo con... Esiste una cosa conosci, che molti anche al Fatto Quotidiano ignorano, che sì, e anche a Libero, al Giornale, in questo sono molto comuni, che si chiama riabilitazione. Ma che c'è? Si chiama quello? Percorso. Quello va benissimo. E si chiama quello che queste persone possono dare e hanno già dato alla società. Ma non c'è bisogno di nominare queste persone. Oltre a quello per cui io parlo nello specifico di queste persone. Ma ognuno può fare quello che vuole. Parlo di due persone allora che sono lontanissime da me, che sono Francesca Mambro e Giusva Fioravanti. Ragazzi, basta con questo. Che oggi sono nell'associazione Nessuno Tocchi Caino, non ce ne frega niente di questo discorso. E combattono una battaglia contro la pena di morte nel mondo. Associazione privata, benissimo. È un'associazione benemerita, privata, di partito, quello che ottimo, vuoi. Benissimo. Allora, queste persone hanno qualcosa da dare. Benissimo, ma fai quello che ti pare. Da dare. Ma fa bene. Adriano Sofri in quel ruolo non solo l'avrebbe svolto benissimo, era a titolo gratuito e sarebbe stato anche un... Va bene, sei a favore della nomina come per la riforma delle carceri di uno che è stato condannato a 22 anni. Assolutamente sì, ma ho parlato anche Buonanno, di Giusta Fioravanti. Vuoi rispondere e Francesca Mambro? Buonanno? No, puoi far rispondere a un cammello, però. Non puoi rispondere a un cammello su una cosa così. Ti ha dato al cammello. Non è che si è pentito di tutta questa cosa, sempre detto che lui non c'entrava nulla. o no? Si è sempre proclamato innocente, peraltro, nonostante abbia scontato tutta la pena e si sia consegnato lui per scontarla. E siccome innocente non era, che cosa dobbiamo fargli? Dargli anche la medaglia? Vabbè, diamo la parola. Io la penso come Travaglio. Allora io dico una cosa, Gianluca, se tu hai figli? Uno. Se nella scuola di tuo figlio gli dicessero, gli insegnassero la teoria, quella che viene chiamata la teoria del gender, omosessuali, la differenza, no, uomo, donna, i gay, eccetera, cosa faresti tu? Beh, io penso che dipende poi dall'età del, ragazzo. No, insomma, dodici anni. Sono contrario, sono nettamente contrario e penso che certi tipi di discorsi si possono eventualmente affrontare alle superiori, non certo né all'elementare né tanto meno. Ma un insegnante gay lo accetteresti? Ma se l'insegnante fa l'insegnante come si deve, senza avere nessuna tendenza, diciamo così, che si possa percepire, sì, altrimenti tribale, no. Ma cosa vuol dire? No. Ma sei tribale? Ma non è che l'insegnante ci ha scritto sopra gay e ha un insegnante a cui piace leccare i piedi, ad esempio? No, ma lascia perdere. Io sto dicendo che è uguale. Secondo te, un insegnante. Se non è palesemente. Ma cosa vuol dire palesemente? Vabbè, metti che uno è bravo o non è bravo. Perché se uno è effeminato non può insegnare, secondo te? No, non è che. Ovviamente, ritorniamo al punto di partenza. Crea confusione. Cioè, se uno ha determinate tendenze e le rende molto esplicite, io dico di no. Se invece una persona che tiene la sua omosessualità nel suo privato e non fa un insegnante che dice di essere gay, secondo te non può insegnare? Che... No, se dice di essere gay, ma comunque si comporta in una maniera. Vabbè, ma come si deve comportare? E come si deve comportare? Cioè, se no, uno se dice uno è effeminato e si vede lo stanno ci sono molte persone effeminate che non sono gay, ma guarda che sei proprio stupido, Non ho capito, se uno è particolarmente effeminato, ma magari non è gay, ed è un professore, gay, mettiamo un gay effeminato un professore, secondo te non può insegnare nelle scuole, secondo te? No, perché disturba i bambini, cioè fa. Secondo me sì. Cioè, se evidenzia questa sua omosessualità in una maniera talmente. Cioè, palese, se Luxuria fosse. Se la signorina. Ma per amor del cielo, fosse, ma neanche il bidello dovrebbe fare Luxuria. Fosse un professore a scuola, no? Luxuria insegna. Cioè, non può insegnare a scuola, secondo te? No, la allora ribadisco: se uno è omosessuale, può insegnare, me non c'è nessun tipo di problema. Però basta che non lo dica. Basta che non lo dica. Questo no, non dicendo. Che non lo dica, che non emerga in una maniera talmente palese che faccia discorsi di certi. No, voglio dire, se è troppo effeminato non va bene. Se è troppo effeminato non va bene. Cioè, un trans non può insegnare, secondo te? Assolutamente no. Un trans professore non ci può essere. Vabbè, secondo me assolutamente no. Che ti devo dire? Ci saranno pure quelli che si fanno operare e poi fanno i professori bene, però. Metti un trans professore. Non riconosco, però diciamo così, d'impatto direi no. No, dopodiché, d'impatto no, vabbè, d'impatto no. Dopodiché posso anche cambiare idea, se mi dimostrano una cosa contraria. Beh, contraria. Però una persona come Luxuria secondo me non potrebbe insegnare. Va bene, grazie, ciao Gianluca, ciao, ciao. Grazie a voi, ciao, ciao, ciao. Oh, make me over. Allora, tanto per farvi capire l'assurdità dell'Italia come paese, no? La regione Friuli Venezia Giulia. Faccio solo un esempio, regione Friuli Venezia Giulia. Nel 2014 8,7 milioni sono stati spesi per pagare le pensioni, cioè gli ex politici del Friuli Venezia Giulia, questo vale per tutte le regioni probabilmente, sono stati pagati 8,7 milioni, quelli che già sono stati politici. Ogni anno sborsiamo 8,7 milioni. Le attuali indennità di quelli che sono al Consiglio regionale costano 6,2, cioè noi paghiamo di più gli ex piuttosto di quelli attuali. Servizio, ma ragazzi, ma questa è una. Ma è qui la vera stortura, dei vitalizi, delle pensioni dei parlamentari regionali e non solo dei parlamentari regionali. Cioè spendiamo di più per gli ex, quelli che già hanno fatti politici, che gli dobbiamo comunque dare i soldi, dobbiamo pagare, piuttosto che per quelli che ci sono adesso. Sì. Massimo da Roma, vai. Pronto, Giuseppe, ciao. Ciao, Giuseppe. Ciao. Senti, volevo dire due parole su Buonanno, no? Che tu hai invitato in trasmissione. Ascoltami, guarda, io ho una famiglia mista, cioè mia moglie è africana e i miei bimbi sono ovviamente misti. Cioè, benissimo, ottimo. Io non so, adesso avrai i tuoi metodi, come dire, comunicativi. Ma come si sentono i figli di questo signore? Come si dovrebbero sentire i figli di questo signore? No, fammi parlare. tu no, Giuseppe, avrai un progetto, come dire, che si rivolge a una strategia comunicativa e che crede che facendo parlare questi soggetti, come dire, si arrivi a una sorta di equilibrio, no? Quindi farli parlare. Non ho nessuna strategia comunicativa. Chiamiamo Bonanno come chiamiamo altre persone. Allora poi affidi al fato, è ancora peggio. Ti affidi al fato, è ancora peggio, perché queste sono materie molto delicate. Capito? Io faccio una trasmissione radiofonica. Ascolta a me. No, ma devi stare tranquillo, però. Io faccio una trasmissione. Bellissimo, però devi ascoltare. No, ma io faccio una trasmissione. No, la premessa. Aspetta, Massimo, la premessa è questa. Io faccio una trasmissione alla radio. Questa non è la scuola, non è l'educazione, non è la. Ma dai, faccio a chi offende. Capito? Non è giusto, perché anche figli, qua ogni tanto qualcuno offende, no, chi se ne frega. Aspetta Giuseppe, i miei figli nella loro scuola sono i primi della classe. Ottimo, aiutano i bambini italiani. Mia moglie è venuta qui dall'Africa a portare civiltà, perché mia moglie insegna inglese ai bambini italiani. Adesso non è che sono bravi, non è che sono bravi solamente quelli che vengono dall'estero, amico, non è che sono bravi solo quelli che vengono dall'estero. I tuoi saranno particolarmente bravi. Tua moglie è brava. Solo ce l'hai aggiunto te. Io non ho detto questo. Tu stai dicendo che i tuoi figli sono bravi a scuola e che tua moglie è brava in quello che fa. Ottimo, stupendo. Ma tu non lo dici mai. Non lo dico mai. Ma perché dovrei dirlo? Non ho capito perché dovrei dire una cosa del genere. Non dovresti dirlo, perché. Ma cosa dovrei dire? La radio può essere anche tua, del Sole 24 Ore. Ma le stronzate che tu. Non è giusto che tu liberamente, come dire, prendi una posizione. Cioè, questa cos'è? Una radio di partito, la tua? Non ho capito io. Ma quale radio di partito? Ma di che parli? Professi una tua religione. Ma di che stai parlando? Non ho capito io. Tu devi essere. Tu hai il dovere morale di essere. Dovere come morale. Dire, guarda, io ti dico una dovere cosa. Morale. Io ti dico una cosa. Dovere morale. Sì, c'è un dovere morale. Io non ho nessun dovere morale, se non. Una voce. Ma che cazzo stai dicendo? Ma i miei figli. Ma devi stare tranquillo. È molto caro. Ma la gente che dice che i miei figli sono inferiori. Ma come ti permetti? Ma che vuoi da me? Ma rivolgiti a Bonanno. Parenzo l'ha combattuto, l'ha affrontato. Ma che vuoi? Non parlare, che lo sai bene. Che io faccio parlare chi voglio. Chiaro? Non sai parlare chi voglio. Assolutamente comunque, sì, non sei tu a dovermelo dire, capito? Non sei tu a dovermelo dire, chiaro? Tanto comunque stai oltrepassando una china, un confine, perché tanto guarda che qualcuno vi fermerà, perché non è possibile che voi appoggiate questi che diffondono l'odio, guarda, non è possibile. Io capisco Parenzo, io ho studiato dagli ebrei e sono onorato. Però io non appoggio nessuno di chi ho diffondo l'odio. Sono onorato, guarda, sono onorato di aver studiato dagli ebrei. Io mi metto nei panni dei suoi figli, studiato dagli ebrei, e la gente che telefona e parla male degli ebrei non ha mai incontrato un ebreo in vita sua, non sa neanche di che cosa sta parlando. No, ma non ho capito perché ti rivolge a me, non ho capito mai. Mai questa domanda? Ma non ho capito perché ti rivolge a me. Ma lei ha mai conosciuto un ebreo? Ma lei ha mai conosciuto un africano? Senti, non mi devi insegnare a me la tolleranza, capito? Ma, non devi insegnare a me la tolleranza. Ma lei è molto tollerante, ma infatti. Non devi insegnare a me la tolleranza, ma chiaro? Di tolleranza, ma si vede. Ma guardi, si vede. Si beh, vede certo, una si vede. Tolleranza da tutti. Ma assolutamente, insomma, si vede comunque, ed è chiarissimo. Comunque, si ricordi una cosa, che sì? Noi siamo tanti, eh? Sì. L'Italia sta cambiando. Ma perché lo dici a me? Figli, ma guardi che i miei figli. Ma perché lo dici a me? Ma perché lo dici a me? Non ho capito. Ma perché lo dici a me? Io sono a favore. Io sono a favore dei matrimoni. Scorreggeranno sulla sua radio di merda, ha capito? Questi un giorno gli presenteranno un conto, signore mio, ma ha chi? Capito? Lei ma non chi è, il conto? Lei non ma deve chi? Pensare di impunemente di far parlare gente che diffonde l'odio, vuoi, ha capito? Vuoi ripassare un po', vuoi ripassare i fondamentali? Ripassiamo un po' i fondamentali. Ma me li faccia ripassare lei i fondamentali. Ecco, ripassiamo i fondamentali. Lei se ha te, fatto la tesi su Sendero Luminoso lì. Senti, amico mio, se tu vuoi ripassare i fondamentali, ti faccio ripassare i fondamentali. Tu hai sposato un inglese, hai due figli di colore, probabilmente misti. No, io non so ho sposato un'africana. E sono orgoglioso, certo. Ma chi ti dice niente? Ma chi ti ha detto niente? Ma che vuoi da me? Ma che vuoi da me? Ma che parla fa parlare uno che dice... Io faccio parlare chi mi pare, se ti dà fastidio... Ma dove? Ma lei non lo interrompe, lo incita. Ha capito? Lei sta lì, lei sta lì. Certo che lo incito, assolutamente. Ovviamente Parenzo, certo che lo incito. Elegante qual è? Io lo incito, sì, allora lo incito, allora... Allora? No, lei non lo può fare. Non lo posso fare. Adesso è arrivato Massimo da Roma. Massimo da Roma. Non lo posso fare. Non lo posso fare. Denunciami. No, non lo può fare. Denunciami. Denunciami. Perché io le telefono e le denunciami. Non lo può fare. Denunciami. Posso fare poco. Denunciami. Dal suo scranno, dal suo microfono. Denunciami. Denunciami. Lei pontifica quello che cazzo gli pare. Senti, io, amico mio, il problema è uno solo. E dirglielo, sono piccolo, ha capito? Ma no, ma sei piccolo. È 5 minuti che parli. Ti ricordi che qua c'è un'Italia? Ti ricordi che c'è anche un'Italia già mista? Ma io sono a favore dell'Italia mista. Non gliele racconta. Io sono a favore. La creolizzazione è già avvenuta mentre adesso lei spende le stai sue esagerando. Parole al microfono. Forse non hai capito ancora. Anni, io sono a favore. Buon anno, si chiama. Io sono. Massimo, stai calmo. Io sono a favore dei matrimoni misti, delle matrimoni tra. Allora li sostenga. E allora dica che queste persone sono essenziali per la nostra società. No, essenziali, ma sono essenziali, che vuol dire? Non c'è niente di essenziale. No, sono essenziali perché le società miste sono le società vincenti. Ma che cazzo stai dicendo? Vabbè, per te sono le società vincenti. Io non arrivo a dire una cosa del genere perché non me ne frega niente. Non per me, per milioni. Benissimo, la società mista, le società che lei non ha mai letto. Ma non ho capito perché attribuisci. Non ho capito perché attribuisci a me pensieri che non ho, perché non ho gli stessi pensieri di Buonanno. No, io non sto parlando dei suoi pensieri, sto parlando di quello che lei dice. Ma io non ho detto niente contro i matrimoni misti o contro e i matrimoni tra... Non me lo dica che sono inferiori, cioè. Ma vabbè, ma tu non hai capito, ma siccome non capisci, io non so come te lo devo dire, non capisci. Invece lei capisce. Ma non capisci di cosa stiamo parlando. Lei capisce al posto dei milioni di italiani che non capiscono. Comunque mi fa piacere questa incazzatura. Mi fa piacere questa incazzatura. Perché lei non si cura del fatto che i milioni di italiani vivono nella ruralità mentale ancora. Vai, capito? Parla ancora. Quindi lei si rivolge a milioni di persone che non capiscono. Sì, ma capisci solo tu. Che io non capisco. Capisci solo tu. Certo. Aspetta, mi è venuta in mente una cosa. Vuoi dire qualcosa a Buonanno? Vuoi dire qualcosa a Buonanno o no? No, non ci voglio mai. Ah, sì, me lo passi. Aspetta. Adesso sarà molto più elegante che con lei. Aspetta, no, ma che elegante, sì, che elegante. Allora, tira fuori le palle. Sì, sono elegante. No, io tira sono fuori elegante, le palle, tira no. fuori le palle. Devi tirare fuori le palle adesso, davanti a Buonanno. Tira fuori le palle. Questo signore ha ragione. Tira fuori le palle. Massimo ha ragione. Stai zitto, che non hai capito quello che vuole dire. No, io ho capito tutto. Massimo ha ragione. Nel senso che Massimo si è sentito giustamente offeso. Buonanno? Ma i miei figli. Aspetta. Qualora avessero, ma l'abbiamo capito quello che ha detto, non c'è bisogno che spieghi. Questo è il punto, no? Ma questo è importante. Aspetta, ti vuole parlare un tizio, Gianluca? Massimo. Aspetta, sì. Massimo, vai. Massimo. Guardi, buonasera, onorevole. Io le volevo dire questo, guarda. Brevemente, sì. io non sono una persona che offendo, non mi voglio offendere. No, ma digli nessuno. Che gli hai detto prima, ripetilo allora, quello che gli hai detto prima. Prima di dire che gli africani sono inferiori, deve avere una panoramica più esatta del paese nel quale lei rappresenta. Ma io non ho detto inferiori, ho detto che non sono capace di gestirsi. Mi ascolti un attimo, guardi, io sono una famiglia mista, mia moglie è africana, i miei figli sono mulatti, va bene? Le piace questo termine? Ora, i miei figli... Come i figli di tante famiglie miste che io conosco, ci frequentiamo, abbiamo associazioni. Non pensi lei non deve mai pensare, secondo me, le do un consiglio, non faccia questo errore, cioè di pensare che incitando, come dire, le paure, le angosce, l'insoddisfazione. Vabbè, anche stai prendendo sulla larga, gli hai dato del razzista, gli hai detto le peggio cose adesso. Me lo è, perché se dice che i miei figli sono inferiori, è un razzista. Ma io non l'ho detto. Ma io perché non l'ho è detto. Vero, perché non è ma vero, perché i miei figli sono i primi della classe, aiutano i bambini italiani, ha capito, mia moglie. Mi scusi, ma io non l'ho detto, ma ad insegnare l'inglese. Vabbè, aiutano i bambini italiani, che vuol dire aiutano? Ma che vuol dire? Ha capito? Adesso è arrivato lui, gli unici bravi sono i figli suoi, ma gli altri sono tutte pippe. Sono meglio dei suoi che fanno fighetta con i soldi del grande dirigente della radio. I miei figli sono meglio dei suoi, sì. Ma che cazzo dici? Perché sono mulatti, sono mulatti, sono meglio. Sono mulatti, sono meglio. Sono mulatti e sono meglio. Razzista. Sono razzista perché contro di lei, contro le persone come lei, bisogna pagare con la stessa moneta, capito? Razzista, sono mulatti e sono meglio. Tu sei impazzito completamente. I mulatti sono meglio degli altri adesso. I miei figli sono meglio dei suoi, perché i miei figli portano dentro di loro. Ha sbroccato, hai perso la testa. Questo ceppo di cazzo, hai perso la testa. Comunque io non ho detto che sono inferiori. Devi avere il coraggio di dirgli in faccia quello che gli dicevi prima. Non fare il filosofo adesso. Non fare il filosofo. Buonanno deve avere il coraggio di sostenere quello che ha detto prima di fronte ai figli. La primavera araba voleva la democrazia. Guarda che casino che hanno fatto. La primavera araba. Io sto dicendo questo. Parlando che sono inferiore, ti stai tirando indietro perché c'è una persona con due figli. Sistemati. Ma dai. Sì, però non capisco cosa dice, l'Africa perché ha bisogno di dittatori. L'Africa dice l'Africa vive bene con i dittatori perché è incapace di governarsi da sola. Massimo, risponde. Ma certo, le primavere arabe sono tutte lì da vedere, ma dov'è la democrazia? Non è vero. Vabbè, non allora, è vero, io conosco l'Africa. Non è vero. No, il rinascimento alle noci di cocco, bene, il rinascimento alle noci di cocco, questo dice la non buona. Non è vero, non è vero, qua. Non è vero, noi quando avevamo il rinascimento loro raccoglievano le noci di cocco, adesso sono passate del genere. Ma io non ho detto non che ci credo, l'ha detta Buonanno, ma che vuoi da me? Non è vero, ma non è vero, ma è una cosa che non è vero. Ma dov'è? Ma scusa, ma cos'è che ha fatto? Ma diglielo in faccia, diglielo in faccia, devi avere il coraggio, adesso non fare il filosofo. Ma gli africani devono venire qua a dirci cosa dobbiamo fare. Tra un po' l'Europa diventa davvero Africa, perché a forza di prendere africani non saremo più noi europei. Massimo, ma se gli europei sono persone come te, mamma mia, va meglio gli africani. Io non so se lei capisce quanto è, come dire, anacronistico il suo ragionamento. Ma tu hai anacronistico. Faccia venire una bella tribù in un palazzo, poi vediamo se è anacronistico o non anacronistico. Ma dove stanno le tribù? Tutti i clandestini che arrivano con il cellulare. Tutti i clandestini che arrivano con il cellulare. Se sono morti di fame, dove lo vanno a prendere sto cellulare? Dove lo vanno a prendere il cellulare? Tutti sti clandestini. Ma quale cellulare costa 3 euro? Ma che costa 5 euro? Ma guarda che io sono andato nei campi di accoglienza, Sono andato nei campi di accoglienza, Aspetta, fermi un attimo, Ma l'ho visto con i miei occhi. Fermi, Massimo. E poi prima di spendere 35 euro al giorno per loro, io li spendo 35 euro per la mia gente, per i miei anziani, allora, aspetta, per i giovani, fermo per gli italiani. Fermo lì, Massimo, io non ho capito. Tu hai detto che le società creole, quelle miste, sono migliori delle altre. Secondo me sì, gli Stati Uniti Gli Stati Uniti sono l'esempio lampante, no? Mi sembra, no? Difatti, sono bravi a fare le guerre. No, difatti cosa? Ma perché? Ma cosa? Lei cosa teorizza? Lo Stato puro, mi scusi, No, ma che è Stato puro? Io sto dicendo che l'Occidente si deve difendere e creare una barriera per fare in modo che non arrivino tutti qua. Ma il punto qua, è proprio quello. Perché è impossibile. Non deve difendersi. Massimo, Non è capace di gestirsi. Ma Massimo, vabbè, d'accordo, un americano sono contento per lei, l'ha sposata per amore, sono contento per lei, ha i suoi figli. Ma mi spieghi una cosa, Buonanno, guardi, scusi, allora io ho preso 200 euro, ho fatto la spesa, sono andato dagli eritrei che sono in transito a Roma, vicino alla stazione Tiburtina, no? Mi spiego? Allora ho portato questi, ho organizzato sul mio posto di lavoro una raccolta di... sono andato là, l'ho portati là, allora... Lei mi deve spiegare una cosa, no? Allora questi adesso sono arrivati nel nostro paese, giusto, no? Quindi stanno qua, questi se ne vogliono andare, vogliono transitare. Vabbè, dai, veloce, vai. Ma dove sono andato io? Al di là delle chiacchiere che fate voi, questi stanno mangiando con l'iniziativa della gente, voi non ci siete proprio. Vabbè. Cioè voi, Massimo, ciao. Né gli date da mangiare, li strumentalizzate per farsi sopra le campagne elettorali, ha capito? Ciao a tutti. Ciao. Vedi che sei stupido veramente, non mi meraviglio di te. Salve, sono in linea con i due simpatici stronzi, lì Cruciani e quell'altro lì, come cavolo si chiama, Parenzala. C'è una persona che conosco che ha twittato questa frase, basta Buonanno, parla di questa nera che si è fatta pompare tutto il grasso sul culo e ora è ricca e famosa. Ed effettivamente su Dagospia c'è la storia. Da un acciaiere di Detroit alle riviste di moda, un'operaia ha cambiato vita facendosi pompare tutto il grasso che aveva in corpo nel culo. Il look a bottiglia di Coca-Cola fa impazzire gli uomini. Bah! Cioè, hai capito che ha fatto? No, mi sei stato chiaro nella spiegazione. Sì. Eh? Mi sembra. Cioè, sì, tutto il grasso che aveva in corpo se l'è fatto pompare nel culo. Ma che orrore è? Cioè, ma quale orrore? Poi, per carità, uno può fare quello che vuole nella vita. Va bene, Antonio Livorno, vai, 800 24 00 24, vai. Sì, buonasera Cruciani, buonasera a tutti. Dimmi. Allora, volevo dire questo, in tema di storture. Ma che paese è? Un paese che intitola un'aula del Senato a un delinquente. Che si chiama di nuovo con Carlo Giuliani. Di nuovo con la storia di che Giuliani. Che paese è? Un paese che intitola soffri a discutere... Antonio, non ti sentiamo. Dici che paese è quello che intitola un'aula della Camera o del Senato, non mi ricordo, del Senato, a Carlo Giuliani. Poi? Che paese è un paese di soffri? Va bene che prende Sofri per dibattere sulle carceri. Poi vediamo se si sente. Niente, Giancarlo da Roma, dai. Giancarlo che da Roma. Paese è un paese in cui un politico prende la ruspa per buttare giù i campi nomadi? Non c'entra una mazza. Giancarlo da Roma. Un paese in cui un deputato della Repubblica dà della feccia a un ospite in studio Giancarlo, solo perché vai. È di origine rom. Giancarlo. Che paese Cruciani, è? Dimmi. Che la famiglia non è l'unico luogo di formazione di una persona. Cruciani, no, assolutamente aspetto, no. Assolutamente. Anche la vita, ho detto anche la vita. Ho detto anche la vita. Parlare, ti ringrazio. Cruciani, affetto da familismo, non me l'aspettavo. No, attenzione. Il suo anticonformismo libertario è molto bello. Spesso famiglia e libertà non vanno d'accordo. Diventare adulti. Assolutamente. Anche infrangere il recinto della famiglia. Assolutamente. Ci pensa la vita. Benissimo. Ma cosa ho detto la scuola, io? Scusa. Cosa ho la detto scuola io? Pubblica è una porzione della vita. No, però, amico se mio, una allora... persona è educata all'odio razziale della famiglia o è educata all'intolleranza, la scuola può salvare, dare un'opportunità di libertà a un individuo. Insomma, chi salva il figlio di Giovanardi dal progetto antieducativo del padre? Salviamo i figli di Giovanardi dalla prigionia del padre. No, però scusa, Giancarlo, alla libertà. La vita è anche la scuola. Il Giovanardi è un diseducatore, la scuola è una porzione di libertà. Ma perché quindi dovete dire questa cosa? Non c'è nessuna aula intestata a Giuliani, peraltro, al Senato. Non c'è nessuna aula del Senato di Palazzo Madama adesso intestata. Una stanza, Nessuna intestata. Come no? Come no? L'aula sì. del Senato intestata. C'è una stanza al Senato, alla Camera, non una mi ricordo targa, dove. C'è una targa. No, c'era una stanza. Ma che cazzo dici? C'è una targa. Ma non c'è solo una targa, c'era una stanza. Ma chi se ne frega? Giancarlo, tu che fai di mestiere? Io sono un insegnante, siccome credo molto alla scuola come luogo di libertà. Omosessuale? No, eterosessuale, ma non è importante. Ma era per chiedere, non è che ti devi vergognare. Ma non è importante, è un insegnante, punto. Non lo posso chiedere, ma che vuoi? Dai, mi sembra stupido. Ma che vuoi? Ma io faccio la domanda che mi pare, anche quelle più assurde. Io ho i capelli biondi. Io faccio la domanda che mi pare, anche quelle più stupide. Ma sarà stupida, ma glielo chiedo lo stesso. È come dire, scusi, lei è un insegnante, dice, sì, lei è negro. È interessante che c'entra la negritudine con l'essere gay. Ma era appunto. Ma sei impazzito? Cioè, sto dicendo che siccome non prima. Non c'entra niente col fatto sia un bravo insegnante prima, o meno. Ma certamente non c'entra nulla. Siccome appunto, prima quindi... abbiamo parlato di insegnanti omosessuali, adesso Giancarlo era insegnante. Gli ho chiesto anche se era gay. Risposta no. Punto a capo, basta. Ma saranno cazzi miei se glielo chiedo. Ma è una cosa stupida, però è ininfluente. Decide lui se è stupido o no. Beh, questa sì, è anche, diventata certo. La trasmissione secondo Parenzo del politicamente corretto, ma in cui bisogna fare le domande precise. Ma non rompere i coglioni, dai. Ha appena parlato Giancarlo, un deputato sul posto della Repubblica. Forza, da andiamo avanti. Qual è il problema? Non ho capito. Io ho semplicemente detto una cosa: che sull'omosessualità, sui gay, sulla diversità, sul gender, sull'amore tra uomini e donne, eccetera, a mio parere, fino a una certa età, poi alle superiori uno diciamo che più o meno, ma non è questo il punto, non c'è bisogno della scuola, c'è la vita e ci sono i genitori, perché quando si cominciano a toccare certe cose è complicato poi il confine, dov'è il confine, che cosa vogliamo insegnare, scusa, ma che nessuno cosa vuole insegnare niente. Giancarlo, cosa vorresti insegnare tu, spiegami. Allora non entriamo nel merito sessuale del Sida. Io ti dico questo: tu hai invocato nel tuo anticonformismo libertario, che io adoro, la vita anche come scuola. Certo, ma la scuola pubblica, siccome è tu pubblicità. Tu stimoli la andare al cesso. Quando sento te mi viene voglia di cagare. Hai dei problemi, Cruciani. A crociata hai dei problemi seri. Il problema sei tu, non sono io. Il problema sei tu. Ah, ma quello di prima dov'è finito? Scusate, Stefano da Bergamo, dai Stefano. Ah, non lo sapevo, grazie. Telegrafico. Primo, si preoccupa di quello che dicono a scuola su sesso e compagnia bella. A me non mi preoccupo perché non succeda, non succede, non, sì. Non è che mi preoccupo no, particolarmente. Se io se vengo a sapere, ho detto che un insegnante vuole spiegare a mia figlia di 10 anni che cos'è un gay e come si, che ne so, la masturbazione, le cose così, mi incazzo, basta, punto. Ma non è perché sono bigotto, perché penso che non sia un insegnante a doverglielo dire, punto. Va, figuriamoci se sono bigotto. Qual è il punto? Ho detto la scuola, chiaro? Dove si deve insegnare la matematica, l'italiano, la filosofia, eccetera. Non l'educazione sessuale. L'educazione sessuale è la vita ormai, capito? Posso finire? Dimmi. Grazie. Spero non ascolti la Radio 24 dalle 18. Che non è la scuola? Che non è la scuola? Che non è la scuola? Che non è la scuola? Paragone patetico, ridicolo, ridicolo. Seconda cosa. Ma no, ma non è inutile che dici seconda cosa. Hai detto una cazzata, la prima cosa è seconda cosa. Beh, no, cassiamo la prima perché è una puttanata. Vabbè, tutti gli ascoltatori in genere dicono cazzate nella non è vero per niente, assolutamente, assolutamente non è così. Vabbè, comunque, la seconda cosa, lei una volta ha detto che una vera donna per essere donna deve essere un po' una troia. Chi glielo insegnerà non lo so. La terza cosa. Non ho capito, spiegami un po' questa cosa. Comincio a pensare che gli imprenditori che si suicidano lo facciano per vedere come la Confindustria spende male i suoi soldi finanziando la sua trasmissione. Che bella intemerata, che bella intemerata, che bella intemerata. Carmelo da Roma. Io, buonasera a tutti. Mamma mia. Intanto non sono d'accordo con le frasi di Salvini perché mi sembrano inaccettabili. Voglio dire, anche se prendi il poliziotto, prende un tizio che spacca la vetrina di una banca, questo significa che devi menare una volta che lo infili dentro una caserma. No, a parte che non ha detto infili dentro una caserma, ha detto se uno prende un manifestante, un delinquente, lo prende per il collo, questo cade e si rompe una gamba, sono cazzi suoi. Non è che ha detto che bisogna pestare. È un esempio stupido perché non esiste. È un esempio, è molto non c'entra nulla con la semplificazione abbastanza. Infatti non c'entra niente con il reato di tortura. Poi ha detto a parte che lui è contro l'introduzione di questo reato di tortura, che adesso sarebbe molto molto complicato andare ad analizzare nel dettaglio, ma che secondo Salvini e secondo alcuni sindacati dei poliziotti è, diciamo, un'arma che si può utilizzare anche nel caso in cui non ci fosse una vera e propria tortura come noi la intendiamo, ma delle semplici, come dire, atti di violenza commessi dai poliziotti. Invece la Corte Europea dice che in realtà la tortura c'è stata, per cui non è un'arma. No, ma lascia perdere i casi che ci sono stati. Sto dicendo che vogliono introdurre questo reato secondo una corrente di pensiero. L'Europa, di Parenzo, tra l'altro, ci dice, ma non c'entra niente, bisogna vedere come si articola. Bisogna vedere come si articola questo reato di tortura. Io farei come negli altri paesi d'Europa, dove ad esempio c'è il numero di matricola anche delle targa. Alcuni sono contrari delle persone, ma alcuni. Non è obbligatorio fare il numero di matricola, non è che siamo civile. In civili. No, assolutamente. Non è che siamo in civili se non abbiamo il numero di matricola del poliziotto. Beh, sì, per certe cose siamo in civili, certo, per certe cose siamo indietro rispetto alle persone. Ma non è vero, noi in altri paesi non ci sono, per cui paesi civilissimi che non hanno il riconoscimento dei poliziotti. Carmelo, che volevi dire ancora? Quello che ha detto il politico di prima, Bonanno, il fatto che quando avevamo il Rinascimento loro prendevano le noci di cocco, santo cielo. Ma lui lo sa che dal 900 al 1100 c'è stato il Rinascimento arabo. Lui lo sa. Lui parlava dell'Africa. Comunque. Noi che eravamo in pieno Medioevo, le persone in Europa non sapevano nemmeno fare di conto, cioè utilizzavano ancora la numerazione romana. Non voglio fare qui, cioè io non so nemmeno. Tu stai dicendo che la superiorità che lui diceva dell'Europa dell'Occidente. Fa il politicante, parla di superiorità, nessuno dice uno è superiore, ma rispetto ma su questo Parenzo ha risposto tranquillamente, ma qual è il problema? Il problema è che è ignorante, che nessuno si azzarda a dire guarda, vai a leggere qualcosina, stai dicendo una cosa assurda, perché sono stati loro a recuperare tutto, la conoscenza greca, la filosofia indiana, sono stati loro, le scienze, sono stati loro che ce l'hanno portati qui, e gli ebrei, perché erano degli ottimi intermediari, hanno tradotto loro le opere arabe in latino. Gli ebrei e gli arabi sono il vero, come dire, volano di tutta la scienza che si era completamente perduta col Medioevo. Ottimo, cui, Carmelo, grazie. Una cosa assurda. Enzo da Bari, Enzo. Ecco. Dimmi Enzo. Senti, no, volevo ricordare che ha detto Bonanno, là, con la Malanno, come cazzo si chiama, con la testa di cazzo. Buon anno. Buon anno si chiama. Ma se sta lui a governo, un cattivo anno. Calma, che non si capisce. Parla bene, che sennò non si capisce. Dimmi. già rotto i coglioni con le cazzate che sta dicendo. Perché non crea la Guayana francese, Copacabana, Berzio, queste cose qua? Ci voleva ficcare in testa che non sono tutti uguali questi emigrati, questi rom, come Gabbè. C'è la persona brava come la persona cattiva, come gli italiani. Io conosco persone rom, di etnia rom, che donano il sangue. Vabbè, quello, vabbè, certo, donano il sangue. Vabbè, no, questo per dire che sono persone brave e persone cattive. Vabbè, ma stiamo dicendo una banalità. Buon anno, sono a testa di cazzo, come se a testa di cazzo quell'altro, la Matteo della Lega. Salvini, ciao. Io non è che ho detto che nelle scuole non si deve, come dire, la scuola, secondo me il sesso sono due cose molto distinte, cioè un insegnante, poi dopodiché io metterei i distributori di preservativi davanti alle scuole, cioè, questo sia chiaro, distributori. Beh, contraddizione. Però. No, distributori di preservativi, qual è perché il problema? Se poi non spia, a parte che davanti alle scuole. Poi di quale scuola? Le superiori. Tanto discorso. Scuole superiori, 14 anni, ormai tutti sanno che cos'è il quello sesso, no? A 14 anni oggi, dai, su. Leggo queste frasi, Parenzo. Ti presento un signore, Sono il vostro desiderio, la mia gioia è farvi sorridere, divertire, confidare, coccolare, emozionare, cantare, ballare e perché no anche sognare. Amo le donne, il loro essere e il mondo che le circonda, non vi accompagno solamente, vi prendo per mano e con una semplice carezza sarò quello che voi cercate in un uomo. Per chi ha dimenticato certe sensazioni, con me le potrà riscoprire, vivere e assaporare, creando quell'atmosfera di attesa, che è essa stessa il piacere. Roberto Turin dovrebbe tagliarsi questo piccolo speech audio che ho fatto, Roberto? Questo piccolo speech audio che ho fatto e magari mettertelo direttamente come pubblicità sul tuo sito. Sì. Ciao Giuseppe, ciao. Allora, Roberto Turin, oggi leggo, apro un giornale, Parenzo. Chi è Roberto Turin? Aspetta, cosa che tu non fai. Sì, tutte le mattine, ma leggo altre notizie. La nuova Venezia, sì. Magari sarà anche su altri giornali. Sì. E leggo, elettricista di giorno, gigolò nelle notti termali. Ah, 45enne di Montegrotto, a rotonda, facendo l'accompagnatore di donne sole. Poi in realtà ho scoperto che non arrotonda per niente per adesso, cioè non si fa pagare, giusto? No, esatto Giuseppe, non mi faccio pagare, no. Però fai gigolò. Mi hanno battezzato con questo nome, è un accompagnatore. Ma lo hai anche voluto dire, perché lo hai voluto, come dire, lo hai voluto confessare in pubblico finendo sui giornali? Non ti potevi fare i cazzi tuoi? Bravo, hai ragione, cioè non è stata volontà mia, sono un tipo molto discreto e discreto, amico mio, però la radio adesso non mi pare, o no? Ah, guarda, il profilo è stato reso pubblico da Facebook, l'ho voluto io. Appunto, Poi sono stato pedinato dai giornalisti e anche se non dicevo nulla loro scrivevano lo stesso, per cui... Vabbè, adesso voglio dire, per qualche motivo l'hai voluto dire, dai, su, cioè, ormai era sulla bocca Giuseppe di tutti, per cui non potevo più tirarmi. Ma scusa, io capisco che tu perché lo fai, con quante donne vai? Cosa consiste però il suo lavoro, scusa? Non è un lavoro, fa un altro lavoro, signor... Sì, no, il suo intrattenimento, in cosa consiste? Aspetta, innanzitutto facciamoci dire che lavoro fai. Ma io sono tecnico elettronico, seguo una mia attività, gestisco le mie riparazioni, per cui... E ti piace trombà, questa è la realtà, no? A me piacciono sempre le donne, io vivo per le donne, è un mondo tutto affascinante, a me incuriosiscono... Ti piacciono le donne? Io vivo per le donne e questo è il mio mondo. No, ma ho capito, dunque tu non hai legami, non sei fidanzato, non sei sposato, non hai figli, eccetera, eccetera. Niente, libero single da sempre. Libero single, vabbè, da sempre, sei stato fidanzato con qualcuno ogni tanto, o no? Sì, ogni tanto mi fidanzo, cedo anch'io delle volte. Però sei un traditore seriale, diciamo, no? Diciamo la verità. Sì, sono... Presenti la patente lì, oppure ogni tanto inganni qualcuna? Ma diciamo, cioè fai credere di essere fedele, invece in realtà c'è tutto un turbinio intorno. Sì, o no? Ma guarda, ti confesso una cosa di me. Io ogni relazione che hai, a delle volte io mi innamoro. Ti dico la verità, io perché ci do tutto, ci do la passione, ci do tutto quello che la donna ha bisogno e io mi innamoro della, diciamo, di questa persona che devo accompagnare, che mi ospita, cioè non è il lavoro che dovrei fare, però io ci casco per 3-4 giorni, poi navigo nelle mie fantasie, perché cioè, mi appassiona, si crea quell'atmosfera, quel coinvolgimento che io ci casco. La mia, non ho capito una cosa, allora Parenzo, devi capire, uno immagina il gigolò come uno che si fa pagare per andare con le donne, esatto. No? Cioè, per uno ti fa pagare. Tu in realtà non ti fai pagare, ma allora fatte pagare, scusa, o no? Ma no, guarda... Fatti pagare, faresti un sacco di soldi, guadagnerai anche poco a fare il riparatore, quanto che stipendio hai? Ma da manager, un manager, un stipendio come da manager. Come da manager? A fare il riparatore di l'elettricista? Sì, cioè io ho un stipendio da dirigente. Ah, da dirigente, allora non fai il riparatore sulle macchine? No, elettronica, settore elettronico. Guadagni, non hai bisogno di guadagnare? No, sinceramente questo non lo ritengo un lavoro per guadagnare, è una soddisfazione che io... Ma lei ha famiglia, signor Roberto? Ma ha detto che non ha famiglia. Ma no, non ho famiglia. Famiglia no, ha un senso allargato, ho capito, non vuol dire avere una moglie o dei ma figli. Ma sì, c'era una madre e un padre, immagino. Madre e padre, che io ci tengo molto, i miei genitori... Ma lo sanno? Appunto, questo lo sanno, sì, no? Lo sanno, Giuseppe, lo sanno, e come, sì. Gli dispiace, immagino. Ma perché dovrebbe dispiacergli? Non ma so, non faccio niente di male, Ma che fa, che è un criminale, non ho capito. C'è chi porta a spasso il cagnolino, che va a trovare i parenti, io faccio qualcos'altro che mi diverte. C'è chi porta a spasso il cagnolino e invece tu fai qualcosa. Ma sì, scusa, è un po' diverso, quante volte a settimana impegni, come dire, il tuo fisico con svariate signorine? Anzi, e fino a che età arrivi? Ma guarda, diciamo che le richieste di accompagnamento per tirare su un po' di umore a queste persone, a queste donne che... Vabbè, se non chiamiamolo tirare su un po' di umore, per trombà, su, amico mio, dai, su. Mi porti su, sai, perché c'è molta tristezza in questo mondo. Io mi ritengo un raggio di sole proprio che do a una donna, la tiro su di morale. Anche ma qualche volta succede che non ci vai a letto? Beh, c'è anche il coinvolgimento, perché ti dico... ci affasciniamo al tal punto proprio che io mi innamoro della persona che ho davanti, per cui si fa di tutto, poi si arriva anche a completare. Ma la maggior parte delle volte si arriva a fare sesso, dai, su, nella stessa sera, o no? Cioè le persone che ti contattano su Facebook, o non so attraverso che giro, immagino che c'è un giro di, chiamiamoli clienti, anche se non sono clienti. No, sono ospiti. Ospiti, amiche, sì, eccetera, eccetera, amiche, numero, esatto. C'è un passaparola, si passano anche il numero, o no? Sì, quello sì, perché nasce tutto, sai, il web ti porta dappertutto, per cui sei conosciuto, non pagano, mi ospitano, mi offrono una buona cena, mi fanno fare un giro anche in barca, sai, una spa. Ma ti capita anche delle coppie che ti osche, delle coppie che... No. Quelle robe, cioè io sono... guarda, tradizionalista. Beh, tradizionalista, adesso non esageriamo. Tradizionalista non si può dire tradizionalista, dai Roberto. Comunque, e dopo questa roba che è successa sui giornali, immagino che hai ricevuto il triplo delle chiamate, il triplo dei contatti. Sì, mi hanno chiamato TV. No, ma a parte le televisioni, eccetera. Sì, ma il massimo di età che sei arrivato, che età sei arrivato ad accompagnare una donna, come dici tu, accompagnare? Guarda, 49, Giuseppe. Vabbè, 49, tu quanti anni hai? 45, 49? 45. Vabbè, infatti, amico 45 mio, ma qui cioè, hai bisogno di qualche lezione, qui devi andare over, per arrivare al top devi andare over 55, altrimenti sì. Di che stiamo a parlare? Mi manca la MILF. Beh, dai, su. E invece giù, più giovani? Guarda, ho ricevuto delle telefonate, però io non ho ancora approfondito, una 19enne, però mi aveva fatto una richiesta qui anche da Arcore proprio. E... come Arcore? Sì, mi ha chiamato da Arcore e sì, ti dico la verità, martedì mi chiedeva proprio... Una diciannovenne di Arcore? Di Arcore, sì. Scusa, ma tu hai qualche particolare dote, come dire, a livello di sessuale? Oltre a un fisico pazzesco che vedo qua, è una particolare dota a livello sessuale o no? No, Giuseppe, sono normalissimo. Sei normale, non sei nemmeno superdotato? No, mi ritengo una persona normale, fisicamente normale, con tutte le cose a posto. Ragazzi, però io non ho mai scoperto, è questo che mi ha attirato in questa storia, un gigolò che non si fa pagare, che vuole semplicemente anche con qualche gentilezza accompagnare le donne. Certo. E, ma tu quante volte, ogni sera esci? No, ogni sera no, già, perché io sono impegnato con la mia attività. Vabbè, ma quanto in media, quanto fai? Guarda, ti può andare bene anche tre serate, poi tre serate a settimana. Ma Parenza è una cosa pazzesca, una specie di lavoro, cioè, no o no? No, a me dispiace un po' per la famiglia. Ma dispiace per la famiglia perché questo ride. Ma perché ti dispiace per la famiglia? Non ho capito. No, Giuseppe, il discorso è anche questo, caro. Cioè, vai fuori, fai una serata, le fai ballare, le fai cantare, le fai divertire, le ascolti. Questo è quello. Il mondo della donna è questo. cioè le devi... La donna di tutti, non è solo della donna. No, è la donna che ha bisogno, sai, la donna ha bisogno di tante cose, una donna è diversa dall'altra, cerca queste cose. La donna deve essere donna e l'uomo la deve far sentire donna, i due ruoli. Ma ti innamori di qualcuno o no, ogni tanto? Ma sì, mi innamoro spesso. Vabbè, spesso, come ti spesso? Innamori a modo ti tuo, imbaghisci. Dai, ti imbaghisci. No, perché cioè, si crea un'atmosfera, cioè io do tutto, hai capito, poi sono noioso. Se una ma sei bravo a letto o no, che ti dicono? Ah, sono soddisfatte, sono soddisfatte, ma avere un'amorosa la soddisfi e... Vabbè, amico mio, allora... ti abbraccio, buona auguri, ciao, ciao. Ciao Giuseppe. Allora ciao. Ragazzi, devo dire una cosa, Aurelio Mancuso, che credo che sia stato presidente dell'Arcigay, eccetera, mi dice che non è che sull'educazione sessuale ci si debba concentrare per forza sulla questione degli omosessuali. No, io ho detto in generale l'educazione sessuale, parlavo soprattutto di scuole di bambini fino a 13-14 anni, fino a 13 anni, fino alla scuola superiore, evidente che dalla scuola superiore può cambiare tutto, però secondo me l'educazione sessuale poi alla fine non serve nelle scuole, perché ormai c'è la vita di tutti i giorni. A cosa serve nelle scuole l'educazione sessuale, che poi ci sono mille fraintendimenti, mille cose? È chiaro che non mi riferivo solamente alla questione degli omosessuali, in generale l'educazione sessuale, no? Caro Aurelio, ti abbraccio, dai, Aurelio Mancuso, ci sentiamo domani 18:30, ciao. E allora li sostenga, e allora dica che queste persone sono essenziali per la nostra società, lo dica. No, sono essenziali, perché le società miste sono le società vincenti. Ma che cazzo sta dicendo? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Questa è informazione? Cruciani, questa è informazione? La zanzara.